24 mattino. 18 minuti 09 secondi 10. Davanti a me un quadro rinascimentale, un color prugna soave e il maglioncino di Oscar di questa mattina. I cani e i gatti. Ed eccoci qua, ed eccoci qua. Senti, ma lo sai che uno studio, perché questi studi ogni tanto dicono delle cose incredibili, uno studio dell'Università di Rochester dice che stare soli in silenzio per almeno un quarto d'ora al giorno diminuisce lo stress e allunga l'aspettativa di vita. Beh, hai visto mai? Cioè, non mi parlano queste grandi scoperte. Certo, poi per un conduttore radiofonico induce la riflessione. È un invito a non esagerare, per così dire. E a noi che succede che passiamo un'ora al giorno tutti i giorni insieme e con altri 1,5 milioni di nostri ascoltatori? E soprattutto non tacendo ma parlando. Esatto. Te l'ho detto, noi dobbiamo riflettere sul modo in cui parliamo. Per esempio, oggi è meglio forse tacere che dire tutto quello che penso dei presidenti di alcune società di calcio italiano che pensano a Vegas di portare presidente. Su questo io dico l'articolo d'oggi di Mattia Felte sulla Stampa insuperabile, preferisco rinviare a quello, perché se parlassi io direi cose che è ingiusto dire, mi limito a pensarle. Però ecco, mi limito a dire che chi racconta quel blocco di potere come un pezzo della storia italiana delle classi dirigenti che sono tra loro collusive, incapaci di prendere atto dei fallimenti, chiuse solo a rapporti di potere per confermarsi l'uno con l'altro nelle reciproche debolezze, il fatto di non mollare il controllo, è la fotografia del calcio che in questo momento controlla gli affari del calcio italiano. Sì. Allora, qui con noi Alam El Brinis, spero di aver pronunciato bene, è una modella di origine marocchina, anzi marocchina, che sta denunciando, quasi inascoltata, un linciaggio che subisce sui social, perché lei è una donna moderna, non ha vincoli, non si impone veli, niente, e qualcuno più integralista la perseguita. Buongiorno Alam. Buongiorno. Che cosa sta succedendo? Lei, allora, è famosa anche, diciamo, nell'immaginario collettivo, c'è stata una foto che l'ha immortala con Salvini che ha fatto il giro dei social network, poi è spesso sui giornali, nessuno immaginava che ci fosse una persecuzione in atto nei suoi confronti. Allora, nel 2015 ho partecipato a Miss Italia e da lì ero un po' stata tartassata da commenti negativi da parte sia di italiani che soprattutto magari di persone di religione musulmana. Ah, sia italiani che musulmani? Sì, italiani, perché in quel periodo ritenevano che, insomma, io non avessi dovuto partecipare a Miss Italia in quanto secondo loro non italiana al 100%, ma io sono nata e cresciuta a Padova e mi considero italiana al 100%. Ah, bene. E da persone di religione musulmana, perché se posso aggiungere, lei usa i condizionali con una grazia che molti politici italiani non hanno. Bene. Beh. E da parte di persone di religione musulmana, perché secondo il loro parere non dovrei sfilare in costume. E cosa risponde? Come si difende? Che cosa sta facendo concretamente di fronte, diciamo, a questa piccola persecuzione? Alla fine sono semplicemente commenti dietro a un computer. Secondo me dietro un computer sono tutti leoni, perché si sentono liberi e potenti. I famosi leoni da tastiera. Esattamente. Quindi i commenti via web non mi feriscono più di tanto. Io continuo a fare quello che mi piace senza nessun problema. Credo di essere una donna libera che può prendere le sue decisioni in maniera indipendente, e basta. Quindi, detto con olimpico disprezzo, se ne frega. No, distacco, non c'è neanche, sì, disprezzo. Non, distacco, non li attribuiamo, perché disprezzo è già un sentimento, sì, più un basso. Sentimento. Distacco, come dire, appunto. Che cosa sta facendo? Quali sono i suoi prossimi programmi dal punto di vista professionale, lavorativo? E adesso sto registrando Colorado, come Miss Valletta. Bene, e si sente un simbolo? Io non mi sento un simbolo, sinceramente. Molte persone mi hanno attribuito il simbolo, ma non credo di essere un simbolo, sto semplicemente facendo ciò che mi piace senza problemi. Quando lei dice mi sento italiana a tutti gli effetti, certo. lo è anche anagraficamente dal punto di vista dei documenti, delle carte bollate, del passaporto? Certo, sono nata e cresciuta a Padova e sono cittadina italiana. Che cosa vorrebbe raccontare sentendo il dibattito che c'è sullo ius soli, sul razzismo, il nuovo razzismo, che cosa sul conflitto religioso, cosa ha imparato lei con questa esperienza, diciamo, biografica di vita? Secondo me un bambino, un ragazzino che comunque nasce nel nostro paese per forza deve essere considerato italiano. Io anche da bambina mi sentivo sempre un po' strana, perché anche magari i compagni di classe non mi vedevano italiana, poi non ho avuto ovviamente subito la cittadinanza, quindi mi sentivo diversa, quando non sono per niente diversa. Sa che molti dicono, ma in fondo a loro non interessa della cittadinanza perché non cambia molto. Invece lei è orgogliosa e difende... Io sono orgogliosa di essere cittadina italiana. Ma difende anche il bisogno. Certo. Spieghi perché. Perché non è un atto burocratico, insomma. Non è solo un atto burocratico, è un po' un concretizzare ciò che ci si sente. Io mi sento italiana e posso dire di esserlo a tutti gli effetti. La spaventa l'integralismo di chi la offende perché lei esibisce il corpo per il suo lavoro? Oppure lo considera, come dire, semplicemente un retaggio del passato? Mi spaventa un po' questa mentalità chiusa e mi spaventa il fatto che possa condizionare magari altre persone. Bene. Oscar, che saggezza in queste parole. Devo dire stringatezza, precisione, chiarezza, idee chiare. Devo dire che non avevo dubbi, però da come avevo letto si capisce, per esempio, che con questi sentimenti, ma con questa misura anche pubblica, secondo me si dà la migliore risposta a chi sia in Italia fa polemiche sull'integrazione fuori posto, sia, questo è l'aspetto più difficile, anche per gli ambienti culturali o religiosi di appartenenza delle famiglie di questi nati in Italia, cittadini italiani del tutto uguali a noi, e ai quali però in quel caso con più delicatezza ancora bisogna opporre le ragioni di scelte di vita libere, come siamo libere noi nel rispetto del nostro ordinamento e delle nostre leggi. Mi sembra, devo dire, un perfetto esempio, e prescinde dalla vocazione professionale che ha la nostra ospite, che potrebbe essere declinata in qualunque altra professione del nostro lavoro allo stesso modo e con la stessa dignità, ma anche però con le stesse idee chiare di un percorso che si costruisce attraverso reciproco riconoscimento, rispetto delle leggi e però richiesta assoluta di aver applicato a sé quel diritto alla dignità e al rispetto che lei dà a tutti gli altri. Alam Elbrinis, for president, grazie per essere stata qui con noi, ci sentiamo spero prossimamente, buongiorno. Grazie. Allora Oscar, ti segnalo questa notizia, non so se diventerà realtà, la verità dice che il fisco sarebbe a caccia di 650 miliardi potenziali che sono custoditi dalle polizze vita. Ti sembra una cosa possibile se arrivi a tassarle con l'imposta di successione, no, eccetera? Ma di cosa ti meravigli? Cioè, il fisco italiano, di che cosa ci vogliamo? Ma no, non dare risposte scontate, non essere stereotipo. Ragiona sul fatto. Ma non è scontato su niente. Oggi facciamo un po' di propaganda al sole su questi argomenti fiscali. Leggetevi il fondo di Mauro Meazza sul pasticcio delle date della rottamazione. Il fisco italiano. Citato. Qualcuno chiede che magari ha sentito un frammento e dice: ma è stata spostata. Sì, è stata spostata. C'è una dilazione ed è ovviamente per tutta la rottamazione. Sì, ho capito, però il problema è che è stata spostata una data al 7 dicembre nel quale non siamo affatto sicuri che ci sia il voto del provvedimento normativo ed è la terza volta che c'è il balletto, ma lo dico perché il fisco italiano quotidianamente è una fonte di ispirazione di fronte alla quale Kafka avrebbe posato la penna dicendo mi batte l'Agenzia delle Entrate, non sono all'altezza di un plot letterario tra l'orrore, la depressione e il cittadino schiacciato impacciato che si sveglia a Scarafaggio così superiore alla mia capacità. Quindi la mia non è una risposta scontata, perché io temo che la maggior parte degli italiani, non avendo il tempo e il modo di occuparsi del profluvio di follie tecniche che il fisco ci propone ogni giorno, crede che il mio sia un racconto stereotipato, e infatti che tu reagisci un po' così. Invece la realtà del fisco supera l'immaginazione. Quindi alla tua domanda la mia risposta non è demagogica, figurati se no, non lo escludo affatto, figuriamoci con quello che ci propongono, figuriamoci. Dopodiché qualcuno potrebbe anche sostenere, però Carosca, tassare in maniera diversa le successioni potrebbe essere una fonte per reperire risorse. B, forse, visto che tu vuoi elevare la pressione fiscale dai redditi, allora bisognerebbe tassare di più i patrimoni. Un discorso di questo tipo potrebbe anche andare bene, cioè se noi usassimo la leva fiscale in maniera organica e non alla ricerca di qualunque fonte aggiuntiva dovunque, redditi, patrimoni, imposte dirette e indirette, potrebbe avere un senso in Italia dire, in cambio di uno sgravio molto forte sui redditi delle persone fisiche e delle imprese, si a quel punto il nostro problema è mettere più a flusso, cioè trasformare di più in redditi l'immobilizzazione a basso reddito del patrimonio, il che un utilizzo della leva fiscale potrebbe avere senso. Quello che non ha senso, allora, è alzare tutti. Questo ti chiedo subito, intanto Enzo da Firenze, sì, la tua domanda era riguarda sia la terza rata della rottamazione in atto sia quella nuova, e invece lo slittamento dei termini. Invece ieri, di fronte a una pungente Lilli Gruber, c'era un allibito da D'Alema, perché la Gruber le ha detto: mi dice per chi vorrebbe l'imposta, certo, della casa. Allora, prima di lui ha detto immobili di lusso, Porro ha detto no, gli immobili di lusso già ci sono, teneva intendo io non quelli denominati lusso, ma e alla fine la Gruber ha detto va bene, ma come a chi andrebbe data imposta la tassa sulla casa? E lui ha detto a quelle famiglie che hanno almeno 3.500 euro netti al mese, restituire l'imposta sulla casa, l'IMU della prima casa. Che ne pensi? Penso che la risposta di D'Alema si capiva chiaramente che non aveva idea di che, non si aspettava la domanda e non padroneggiava l'argomento. Questo me lo chiedi, io amaramente devo dire, perché figuriamoci, D'Alema ai miei occhi è un altro di quei miti ricorrenti. Sono convinto che fosse un ministro alla corte della Messe II, ce ne sono alcune di figure politiche italiane. Ma a parte il fatto, questa tua idea sullo stato, diciamo, in cui D'Alema era di fronte al bombardamento del Cortese ma fermo della Gruber, la mia domanda è: pensi che questo tipo di patrimoniale possa essere collegata fra reddito e proprietà? In questo caso sarebbe una sorta di imposta mista, no? Io penso che quello è il classico esempio della confusione indotta dalla ricerca di gettito italiano. Noi ci siamo inventate queste imposte ibride, per cui ce ne sono diversi casi, per cui ci sono le imposte, per esempio immobiliari, che per una parte sono patrimoniali, cioè con indici che riguardano la superficie, quando dovrebbero essere delle tasse unicamente, tasse che non sono imposte, tasse sono per un corrispettivo di un servizio utilizzato, che dovrebbero essere invece esclusivamente misurate ma su quanto utilizzo quel servizio. Allora, questa maniera ibrida, che serve solo a aumentare il gettito, è l'indice della confusione del legislatore fiscale. Mettere insieme imposte sul reddito e patrimonio significa non conoscere l'ABC di un sistema fiscale, perché l'imposizione sulle due cose ha effetti diversi e deve avere finalità diverse. Noi, D'Alema probabilmente crede che 3.500 euro siano i paperoni, e questo già è sbagliato, perdonami. Ha detto 3.500 euro netti, poi ha spiegato, no? Sì, ok, d'accordo, però al di là di questo parliamo di 70.000 euro l'anno. Al di là di questo, ieri si capiva che gli sfugge l'effetto che ha avuto in un'unità di tempo molto breve, perché è avvenuto poi in 2 anni, l'aumento del gettito sugli immobili in Italia da 10 a 27 miliardi annui, ha avuto l'effetto inevitabile di ripercuotere sui valori immobiliari, cioè sull'intero stock del patrimonio immobiliare, che come sai è la prima voce nel portafoglio delle famiglie di allocazione al proprio risparmio. E gli italiani si sono trovati tutti più poveri per questo, cosa che era stata largamente sottovalutata nell'illusione che i prezzi dell'immobiliare salissero sempre. Invece no, quando un paese perde reddito e produzione, cioè sui flussi, anche il valore degli stock, cioè degli immobili, ma come di qualunque altra immobilizzazione, cade oltre una certa soglia, inizia a cadere più che proporzionalmente. Questa roba qui ha colpito i più poveri, non i più ricchi. Quindi sono gli effetti paradossali di una concezione sbagliata quando chi crede di intervenire in maniera redistributiva invece colpisce in maniera regressiva. Lo so che spiegare è stato un po' lungo, però è solo per dire che la mia critica da D'Alema non è un pregiudizio. Ieri mi è sembrato che non fosse proprio la sua materia. Non dico solo che ci cacciano perché c'è la pubblicità, mandiamola e poi torniamo. Mattino. Rieccoci, 8:37 minuti, il comandante Oscar Giannino e il suo umile mozzo Luca Telese qui al comando di questa piccola Enterprise che attraversa la modernità. Qualcuno ci insulta dicendo come vuole essere italiana, è soltanto nato in Italia, ma allora non hai le orecchie. Ma come è soltanto nata in Italia? Parla con un accento addirittura no, settentrionale, in italiano perfetto, con i congiuntivi, i condizionali. Veramente qualche subumano rasato potrebbe andare a ripetizioni da lei. E questa splendida valletta, modella marocchina, di origine marocchina ma italiana di nascita e di passaporto, non sarebbe italiana. Io lo trovo... bah, no? E purtroppo in questi anni il numero di italiani che la pensano così si è molto cresciuto. Facciamo l'esame di italiano agli italiani, vediamo quanti meriterebbero di poi avere questa sospirata cittadinanza. Allora, è con noi il grande Gianluigi Nuzzi, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Ormai è il terrore delle gerarchie ecclesiastiche che continua a sfornare una tetralogia, è diventata. L'ultimo libro è in libreria da pochi giorni e ovviamente il racconto che Nuzzi fa è un racconto che è in parte inchiesta, in parte è analisi, in qualche modo accompagna anche la storia di questo pontificato, perché è diventato un come possiamo dire, un sostenitore indiretto di Papa Francesco. Quindi dopo Vaticano S.P.A., dopo Sua Santità e Via Crucis, l'ultimo libro, Peccato Originale, eccoci qua, buongiorno. Eccoci. Ma perché il terrore? Io non credo. Davvero è finito terrore. Sotto processo. Questo ma è anche il racconto di un processo. Questo è il terrore che vorrebbero mettere a lui più che altro, ma non funziona, mi pare. No, io posso chiedere una cosa, ma sapremo mai, secondo te, ci sarà un tuo libro che ci dirà se è vero o meno sul sequestro di quella povera ragazza con cui comincia il tuo libro, aggiungendo molto particolari, ma secondo te sì. Salterà quel tappo? Perché è evidente che il tappo c'è, no? Beh, per far saltare il tappo bisogna togliere i sigilli. Io credo aver la presunzione, insomma, che questo libro li toglie, ecco. Perché svela una trattativa segreta tra la Procura di Roma e il Vaticano per di fatto, diciamo tra virgolette, chiudere l'inchiesta. Ci sono stati degli incontri riservati tra alcuni monsignori del Vaticano e il titolare dell'inchiesta, l'allora procuratore capo reggente di Roma, Giancarlo Capaldo, sia in Vaticano sia a Roma, in procura, dove praticamente i monsignori, questi due monsignori, avrebbero ventilato senza tanti peli sulla lingua che avrebbero dato indicazioni sulla tomba di Emanuela. Dato che questa è una storia devastante, innanzitutto per i familiari, poi per quella ricerca della verità, spero che ci siano come dire, dei passi avanti. Ma Pignatone, che a un certo punto, arrivando in procura, nominato, diventa fondamentale per alterare e far saltare in piedi quella trattativa. Sapeva bene gli effetti di quello che stava facendo, oppure nel suo caso è un effetto inintenzionale? Ma io penso che Pignatone non ho motivo per pensare male, quindi dato che non mi piace la dietrologia, penso che Pignatone, non ravvisando gli elementi a suo dire per andare avanti nell'inchiesta, l'ha chiusa. Certo che spostare il corpo di Renatino De Pedis dalla cripta della Basilica di Santa Polinare, che frequentava Emanuela quando faceva i corsi di musica, è stato un autogol, perché quello permetteva di esercitare una sorta di pressione sul Vaticano nell'attesa di ricevere le agognate informazioni. Il corpo di Renatino De Pedis viene traslato al Verano, l'inchiesta si chiude col voto contrario, con la protesta formale e ufficiale di quello che aveva fatto l'ultima inchiesta, certo, l'ultima indagine, Capaldo, e così un'altra pagina italiana, italo-vaticana, rimane senza lieto fine. Pensiamo alla morte di Roberto Calvi, pensiamo al caffè di Sindona, pensiamo al disastro dell'Ambrosiano, pensiamo alle, insomma, tante, pensiamo a Esterman, alla Guardia Svizzera, per andare nel passato. Senti, ma tutti i casi risolti. Io dico, per chi ci ascolta, perché il libro va letto assolutamente, questo libro, per chi come me da anni si occupa, insomma, delle vicende IOR e di tanti episodi, alcuni dei quali appena ricordati da Nuzzi, che restano senza parole ma hanno avuto un impatto devastante nella storia dell'economia e della finanza italiana, perché gli incroci tra Ambrosiano, IOR, Sindona, la Banca d'Italia, la DC, per fortuna che esisteva Andreatta, capace di dire di no ad Andreotti, tanto per dirne uno. Quindi sono pezzi di storia italiana. Però quello che mi ha colpito è che in questo libro emergono anche dalla contabilità, cioè proprio dai conti dello IOR, particolari storici che a me hanno lasciato abbastanza senza parole. Cioè la documentazione, per esempio, dei conti del segretario di Paolo VI, Monsignor Macchi, e insomma è una cosa sulla quale dovrebbero indurre molti storici ad approfondire, a riprendere un po' in mano le carte e a separare il troppo paradiso con qualche spruzzata anche, per così dire, di colore diverso dal paradiso, o mi sbaglio? No, è esattamente quello. Cioè, noi siamo figli di una pubblicistica, di una di un giornalismo nel secolo scorso sul Vaticano, ma anche quest'anno, anche ora, che è molto figlio della cronaca sugli indirizzi pastorali e magnifica personaggi che poi in realtà poi vai a vedere e magari abusano di chierichetti nel seminario quando, all'interno delle mura, quando poi fuori sono omofobi, trafficano milioni di euro di oggi, come emergerebbe da questa contabilità in relazione al Monsignor Pasquale Macchi, l'assistente, il segretario storico di Papa Montini, e tu rimani basito. A me interessava soprattutto evidenziare un fatto, perché poi, cioè, noi ci chiediamo come mai Papa Francesco non riesce a fare le riforme. Allora, il perché è un perché che ha delle radici profonde. Le radici profonde è perché c'è un blocco di potere che parte appunto da Papa Montini, che si esprime con Marcinicus, con i suoi eredi, che hanno dei nomi e cognomi che io indico nel libro, e che costituiscono una ragnatela che soffoca ogni cambiamento. Cioè Marcinicus, ci sono delle verità storiche che vanno ribaltate, perché considerare Marcinicus un uomo che è stato preso in giro da Calvi, da Gelli e Sindona, è un errore storico. Marcinicus faceva parte del potere, favoriva tutta una dorsale di potere curiale che arrivava fino all'appartamento pontificio. Quando arriva Papa Luciani, vede questa situazione, viene un po' colore. Devo dire che il racconto dell'incontro dell'allora ancora patriarca di Venezia, che Marcesco non poteva sapere, sarebbe poi diventato Papa, che va all'ufficio di Marcesco, e Marcesco, che lo tratta come un povero illuso velleitario, prete di campagna, ha un suo perché anche letterario, però fotografa esattamente quello che stai dicendo. Eh sì, perché poi Papa... Poi questo potere negli anni 90 pulisce i soldi della tangente Enimont allo IOR, esatto. Poi negli anni successivi con Ratzinger, per arrivare ai giorni di oggi, blocca ogni cambiamento allo IOR e polverizza quel riformatore che era Gotti Tedeschi, che era stato messo lì direttamente da Benedetto XVI. Poi abbiamo, non possiamo dimenticare, la rinuncia al pontificato di Benedetto XVI, che è espressione di un papa enorme, gigante nelle sue visioni, che capisce benissimo che non ha più il polso. Lui non poteva mandare via Bertone, non poteva mandare via quell'italianità, per parlare, per spiegare meglio cos'è l'odore, quel cattivo odore di curia che è tanto criticato da quegli americani, che poi hanno portato a cambiare, a portare a Francesco. Ma è illusorio ritenere che Francesco possa rilanciare la Chiesa quando c'è una una curia opaca e quando lui non viene ascoltato all'interno di questa curia. Cioè questo è un problema, non viene ascoltato perché quelli hanno una collezione di informazioni riservate che gli garantiscono un potere inquinato e hanno una potenza di manipolatoria negli iter dei cambiamenti del Vaticano. Lì, quelli sono da sempre. Francesco arriva, come ha detto lui, dalla periferia. Da periferia, sì, esatto. Bene, allora grazie a Gianluigi, ti facciamo tutti gli auguri per il tuo libro, ti aspettiamo qui presto, 8:47 minuti 18 secondi per chiamare 800 24 00 24, per mandare messaggi 349 238 6666. Senti, ma hai letto sul giornale, cioè l'apertura oggi è dedicata a questa proposta di uno degli assessori della Giunta Raggi, per verità che però sicuramente può essere attribuita al Raggi, al sindaco, alla sua squadra, viene chiamata accoglienza diffusa. Sostanzialmente si fa un bando e si dà un contributo di 1.000 euro a chi accoglie un profugo politico oppure un migrante richiedente asilo a casa sua. Ovviamente questo fa risparmiare molti soldi all'amministrazione, però pone dei dubbi, cioè da un lato è solidarietà, dall'altro potrebbe essere un business, che ne pensi? Beh, è un business, questa famosa polemica dei 35 euro che da sempre fanno coloro che sono contrari al sostegno a chi sbarca in Italia, dovremmo buttarli in mare, e quindi è declinata diversamente. Io posso dire, spezzo invece una lancia, perché è declinata diversamente, oltre alle strutture di accoglienza, oltre al sistema SPRA, qui stiamo parlando dei richiedenti asili, quindi il sistema SPRA, al quale sottolineiamo non partecipano ancora troppi pochi comuni in Italia, solo poco più di 1.000 su 8.000, che è quello del canale ufficiale rivolto alle strutture in cui vanno quelli che hanno richiesto asilo, non quelli che non ne hanno titolo. Oltre a questi canali c'è un canale individuale di disponibilità all'accoglienza. A quel punto però è giusto riconoscere anche il valore medio che si spende, anche in questo caso è più basso. Forse domani la chiamiamo. Chiedi perché conto. Per me il grande problema, Oscar, non è ovviamente, tu sai, poi si tratta di richiedenti asilo e non di persone che non hanno nessun diritto, quindi dice di fronte a chi ha un diritto maturato che comunque da mi costerebbe, ecco, se maturato, o comunque maturato ad essere ospitato in questo momento, io anziché spendere per un residence mi do ad un cittadino. Non piace, il ovviamente. Problema è come controlli, esatto, come discrimini, sì, fra ma, chi fa la prima di questo, quello la che non chiappa piace, soldi quello, e chi invece offre un servizio. Il titolo del giornale è che dirà: ah, vogliono corrompere tra virgolette gli italiani puri facendogli sentire il profumo dei soldi. Vabbè, per ma accogliere questo no. Ma lo sai che questa è una del sottinteso della polemica, no? Comprano il consenso, questo. No, non è questo. Oltretutto, faccio notare, nel frattempo, sì, le solite cose tecniche, tu mi direi, però nel frattempo Roma si trova alle prese con un lupo, cioè si sta avvitando su se stessa. Se uno va a vedere legge di bilancio oggi, ancora una volta, solo 24 ore, informazione tecnica, nella proposta previsionale triennale di bilancio che la Giunta Raggi ha fatto adesso, ecco, gli investimenti scendono drasticamente l'anno prossimo, cioè da 556 milioni a 401 milioni. Bisogna essere, in altre parole, quando si hanno così poche risorse, vista l'eredità bestiale che si è avuta in mano, anche un po' creativi. Questa è una maniera creativa, secondo me, perché costa meno fare così che riattare grandi sedi per gli immigrati. Questo per dire. Anche io lo penso, però il tema dei controlli è importante, quindi se riusciamo la sentiamo, ci facciamo raccontare come l'ha pensata. Vincenzo da Genova, sì, le vostre voci, 800 24 00 24, vai. Buongiorno, prima di tutto complimenti per la trasmissione a lei e a Giannino. Grazie. Niente, io volevo, oggi ho letto l'ennesimo tweet di Di Battista che si scagliava contro la legge Fornero, dicendo che aveva massacrato i pensionati. Io mi stavo chiedendo che dopo avremo senza la legge Fornero, senza l'entrata in vigore della legge Fornero, che buco avremo invece degli 88 miliardi che ho letto l'altro giorno sul Corriere della Sera. Lo so, però, hai un inferno di suonerie, però, che caro si ascoltatore, questa è l'assoluta verità, quella che dici, che ai politici non piace perché vogliono pettinare il crine del cavallo, nel senso di dire a tutti che è stata un'orrenda offesa ai diritti degli italiani. È un classico capro espiatorio. Ieri la Fornero, c'è un giornale oggi che lo racconta La Stampa, esatto. Pagina 19, sono distrutta, io perdo sempre. La Fornero guarda il film con gli esodati, l'ex ministra, sono stata ingenua, ma la mia riforma oggi fa comodo. Però era lei che piangeva. Lei non è si tira indietro mentre tutti la insultano. Questo è vero. Tutti quelli che vero. Hanno votato, perché il disastro che avevano fatto per anni raccontando palle, ed è per questo che abbiamo dovuto fare questa riforma in fretta e con una radicale accelerazione dei tetti previdenziali, per colpa dei politici che hanno raccontato palle. I politici hanno raccontato palle, l'hanno votata e la insultano. Tre motivi di infamia, se mi permetti, di infamia assoluta, perché io non sopporto questa maniera di fare, di indicarla aggressivamente come la responsabile di una specie di strage. Quei politici hanno tre infamie, lei no. Gianfranco da Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Non voglio essere retorico, ma complimenti, perché vi ascolto tutte le mattine. Ma perché retorico? Bravo, grazie. No, siccome mettiamo anche un insulto per bilanciare, uno No, lo leggo così per par condicio, perché qualcuno dice: avete insultato per 15 minuti Ulisse, la Chiesa Cattolica. Ma noi non abbiamo insultato la Chiesa Cattolica. Raccontare la verità su Emanuela Orlandi. Io sono d'accordo con voi, ma non sono uno abituato ad insultare. Grazie. Allora, di che voleva parlare? Io volevo intervenire su quello che avete discusso prima sull'IMU, tornare a pagare l'IMU prima casa, esatto. A quali condizioni, perché la proposta D'Alema. Sposo in toto la teoria di Oscar, che non è la soluzione. Più tasse si mettono e meno la gente spende. Siccome dobbiamo far crescere il PIL, perché questi qua non hanno capito che la differenza la fai sul corrispettivo, non sull'aliquota. Se non facciamo crescere il corrispettivo, non ne veniamo fuori. Ma se continuiamo a mettere le tasse, la gente non va a comprare, non spende, e quindi non si crescerà mai. E purtroppo non si cambia la tendenza è sempre di aggiungere le tasse. Bisogna aumentare il gettito e quindi abbassare le aliquote e incassare lo stesso. Questo non l'hanno capito. Purtroppo io dico che abbiamo dei governanti che nessuno mai ha avuto la partita IVA, perché se avessero avuto la partita IVA molto probabilmente ragionerebbero in una maniera diversa. E purtroppo denaro se ne vede sempre meno in giro, anche il discorso del denaro elettronico per esempio. Va benissimo, è comodo, però non è la soluzione. Poi ti vengono a raccontare che perché la gente non evada. I piccoli evasori, guardi, voglio che le dica, il piccolo nero, quello che va a fare il giardinaggio e che si prende qualcosa per arrotondare, perché se stasse bene non andrebbe a raggiungere le fatiche, è quella una risorsa, perché due minuti dopo la va a spendere, lo Stato perde il primo giro e basta. Bene, grazie. Dicevo, qualcuno mi chiede il titolo di Nuzzi, Peccato originale. Peccato originale. Non è un libro blasfemo. No, non si è attaccata a nessuna istituzione. Nuzzi dice: io addirittura aiuto, spero di poter aiutare. Siamo il pontificato così poco blasfemi di Papa Francesco. Che io chiudo per esempio dicendo: Francesco, a cui avevano detto nel viaggio in Birmania non puoi citare Rohingya, è riuscito a fare un discorso ai militari e a San Suu Kyi dicendo tutte le etnie dovete rispettare, era chiaro che si riferiva a quello. Così si fa, viva Papa Francesco. Allora, invece io voglio fare una segnalazione, il supplemento del Sole 24 Ore diretto a Christian Rocca, meraviglioso questo mese, il ritratto, comunque la pensiate, Emmanuel Macron, Emmanuel Carrer che racconta Macron. Ciao, a domani!